voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. You're not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. You were the all-singing, all-dancing crap of the world. Abbiamo aperto anche la quarta e ultima parte di Eclettica di questa settimana con l'ennesimo spezzone del film che dovreste avere ormai capito. Si tratta di Fight Club. Fight Club, quindi, che caratterizza questa settimana, come anche gli incipit, che però proprio quest'oggi stanno per cambiare autore rispetto all'autrice che avete sentito fino a ieri. Ma per quanto riguarda la musica, vi siete appena ascoltati una bella novità, K7, che arriva dalla Francia. Joachim, chi frequenta magari le atmosfere più dense, può aver sentito questo nome, oppure può aver sentito anche uno dei tanti pseudonimi che nella sua carriera ha adottato. Non li vado qua ad elencare, li trovate facilmente su internet. Ecco, per la K7 esce nel mese di febbraio con un album dal titolo Monsters and Silly Songs, in cui sì, ci sono ancora tracce proprio per il dance floor, ma ce ne sono anche altre in cui si diverte a toccare vari generi. Noi ce ne siamo ascoltata una che ha per titolo Rocket Pearl, e nulla vieta che in futuro in Eclettica ce ne ascolteremo anche altre. Proseguiamo con le novità all'interno di Eclettica con un disco, in questo caso, che arriva dalla Germania come etichetta, arriva dall'Austria come terra di origine dell'artista e arriva dall'Inghilterra, per così dire, come atmosfera musicale. Lui si chiama Max Min. Max scritto con la M minuscola e Min scritto con la M maiuscola. Incide per la Kalinkaland, etichetta tedesca di Weimar. Dall'album Bright is the Silence ci ascoltiamo Easy Song. Durante i miei primi anni di vita nacque in me il gusto per l'avventura. Mio padre diceva di non conoscere esattamente il perché dell'esistenza e cambiava in continuazione lavoro, donna e città. La caratteristica più evidente di mio padre era la sua mobilità. Si considerava un filosofo, senza libri, ma con una sola fortuna, il pensiero. All'inizio pensavo che mio padre fosse solamente un uomo amareggiato per essere stato abbandonato da mia madre quando ancora non camminavo. A quei tempi abitavamo in cima alla via Ramiro Barcelos a Porto Alegre. Mio padre mi portava a spasso tutte le mattine nella piazza Julio de Castillos e mi insegnava i nomi degli alberi. A me non piaceva limitarmi ai soli nomi, volevo conoscere le caratteristiche di ogni vegetale, le loro zone di origine. Lui mi diceva che il mondo non era fatto solo di quelle piante, ma anche della gente che passava e di quella che restava, e che ognuno ha il suo dramma. Questo era l'incipit del Cieco e la ballerina di João Gilberto Noll. There's a gloom around the spark. To fire up the dark. To fire up the heart. Of a shadow when it's come to part. Trouble awaits me. It's breathing down.

going to fill the holes that you've been digging tonight. Is there no end to all the blaring voices that are going in your mind? Is there no love? No Love in Your Heart, e questo è il titolo del brano, quello che apre il nuovo album degli inglesi The Earlys, album che ci siamo ascoltati appunto col pezzo appena citato, e ci ascoltiamo soprattutto grazie al lavoro di due etichette, una per il mercato europeo e una per quello americano, che si sono messe assieme, ovvero sia la Groenland e la Secretly Canadian. Queste sono le due etichette grazie alle quali è arrivato a noi questo di Enemy Chorus, il titolo dell'album degli Earlys appena ascoltato. Come due etichette, però qui siamo in Italia, si sono messe assieme per permettere a Marta Collica, fino ad ora aveva legato il suo nome a collaborazioni come quella con John Parrish o quella con Hugo Ray, o il progetto Songs with Other Strangers, ma ora arriva, grazie alla Desvelos e alla Macaco Records, ad un album solista dal titolo Pretty and Safe, che ha l'onore di chiudere l'intera settimana di Eclettica, che è anche la 21esima. Giulio Caperdoni vi ricorda i due indirizzi con cui mantenere il contatto: giulio@radiorockfm.com e myspace.com/eclettica. Il primo serve anche per iscrivervi alla lista nera della trasmissione. Noi ci salutiamo con la traccia numero 2 di Marta Collica, ovvero sia He's Telling Me All. Alla prossima! As you wanted, as you know, I